come ha già fatto nelle serie precedenti, John Zorn chiama a raccolta sul palcoscenico anche gli altri protagonisti dei concerti, per cui Electric Masada, che abbiamo ascoltato adesso, si sono aggiunti Calvin Wilson, Eric Friedlander, Greg Cohen, Uri Kane, Sylvie Courvoisier, Mark Feldman, insomma tutti i protagonisti di questa tre giorni. John Zorn con Pete Masada, tutto il pubblico in piedi ad applaudire. Una menzione speciale per Mark Ribot, vero protagonista di quest'ultimo concerto, Electric Masada, che ha chiuso degnamente, più che degnamente, questa tre giorni. Lo ricordiamo ancora una volta, i concerti che non abbiamo ascoltato in diretta verranno poi trasmessi, entreranno a far parte della programmazione di Radio 3 Sweet Jazz nelle prossime settimane, anzi a dire il vero probabilmente a partire da settembre, visto che già stiamo lavorando per l'estate, e anzi il prossimo appuntamento col jazz sarà il 6 luglio, se la memoria non ci inganna, in tarda serata intorno alle 10:30, un concerto completamente differente, quello di Sergio Mendes, un concerto che segna il ritorno sulle scene di Sergio Mendes, eroe del Brasile, della musica brasiliana degli anni 60, 70 e così via. Ma questi applausi sono tutti per John Zorn e per tutti i membri delle varie formazioni, delle varie declinazioni del progetto Masada, che ha portato qui a Roma in questi giorni. Un progetto appunto, come detto, estremamente articolato. Non si tratta semplicemente di riarrangiare per formazioni differenti le stesse musiche, ma si tratta di ripensare, di ricreare, avvalendosi ovviamente dei solisti a disposizione, pratica tipica del jazz che fa tesoro dei musicisti che la interpretano, fa tesoro proprio delle possibilità, delle capacità di questi musicisti di saper reinventare la musica giorno dopo giorno, sera dopo sera. Credo che riusciate a sentire gli applausi, il boato del pubblico che chiama ancora una volta. Ecco, si sente tutto quanto, e chiama ancora una volta in scena i musicisti. Non sappiamo se a questo punto risponderanno, anche perché l'ora è piuttosto tarda, quindi non sappiamo se avranno la possibilità di rientrare. Noi siamo già, credo, oltre la mezzanotte, quindi ecco, risalgono in scena. E sì, c'è tempo ancora per un bis, quindi credo, Nicola, che noi continuiamo, ci ascoltiamo il bis di Electric Masada, giusto? Credo di sì, Pino. A questo punto togliamo il credo, diciamo, ci ascoltiamo il bis di Electric Masada. Ne farà uno o due come ha fatto finora? Ma eccoli qui. Allora, pronti? Electric Masada.